Epoche di passaggi è lo spettacolo conclusivo del progetto Voci 2022-1962. Verrà presentato il 25 aprile al Parco del Cavaticcio con tre repliche alle ore 15.30, alle 16.45 e alle ore 18. Lo spettacolo nasce da un'idea di Luca Alessandrini e mia e si avvale delle scene di Irene Ferrari. Viene presentato da una numerosa compagnia, un grande gruppo misto formato da ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile, a studenti del liceo Laura Bassi e a un numeroso gruppo di cittadini di tutte le età. Sono 33 partecipanti che hanno lavorato per due mesi insieme e a piccoli gruppi per preparare questo spettacolo che si articola come un grande gioco dell'oca. Si ispira a un gioco che fu realmente pubblicizzato, presentato nel 1964 in occasione della inaugurazione dell'autostrada del sole. Questo gioco dell'oca è composto da ben 43 caselle e si giocherà con due segnaposti, una lambretta e una 600. Ogni casella ha una durata media di circa 4 minuti e ogni casella viene presentata da un gruppo particolare di interpreti. Le caselle hanno soggetti assai diversi. Si parte da caselle dedicate ai caroselli di quegli anni, il carosello della Brillantina Linetti, ad OMSA, Caffè Paulista, alla pubblicità del Radio Marelli, al dentifricio Durbans. Accanto ai caroselli ci stanno le grandi canzoni di quegli anni, assai diverse e ricche, da Tenco, Il mondo gira, alla Pavone con Il ballo del mattone, a Gaber e La città non lo sa, fino a Modugno nel blu dipinto di blu. Accanto a questo altre caselle dedicate a avvenimenti di costume di quegli altri, la legge Merlin, Giovanni XXIII che sale al soglio papale, la notte di San Silvestro del 1960 con i grandi viglioni in Versiglia, per l'appunto l'inaugurazione dell'autostrada del sole nel 64. Altre caselle sono dedicate alla letteratura di quegli anni, a Umberto Eco con Diario Minimo, famoso è il suo scritto titolato Fenomenologia di Mike Bongiorno, oppure a Nonita, la parodia di Lolita, infine altri scritti tratti da Calvino, dal Marcovaldo, Branciardi è citato in una casella con La vita agra, il cinema di quegli anni, una casella dedicata a Rosi, Le mani sulla città, al Pasolini della ricotta con Orson Welles intervistato che recita «Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi, abbandonati sugli Appennini e le Prealpi». Per passare a caselle dedicate a Fellini, alla Dolce Vita, alle grandi contestazioni che il mondo cattolico sollevarono contro il film. Ricordo il cardinale Montini che ammetteva in un'intervista di non aver visto il film, ma diceva nello stesso tempo di tenersene alla larga e manifestava il fatto che aveva ricevuto suppliche e proteste molto gravi contro il film e chiedeva l'intervento dell'autorità ecclesiastica per farlo togliere dagli schermi. Altri film fondamentali legati alla vita di quegli anni, ricordo Antonioni, Il deserto rosso, concentrato su quella provincia d'Italia, il Ferrarese e il Ravennate. Ecco, insomma, le caselle sono dei piccoli squarci di quegli anni, assai diversi l'uno con l'altro. I due presentatori che giocheranno le repliche lanceranno i dadi e la sorte deciderà come chiaramente i segnaposti procederanno. Si prevedono tre repliche e molto probabilmente saranno tre repliche assai diverse l'una dalle altre. La durata di una replica è circa 50 minuti e si prevede che in 50 minuti si possano al massimo attraversare 14-15 caselle diverse.